cieca. Ho fatto il bagno di Giuseppe poco fa. Gli ho cambiato anche la caspola. Come mi ascolti? Cappa Pompo, dimmi solo quando posso salire per ritirare il pacco, cambio. Anche adesso se vuoi salire. Non mi ascolti, ti ho cambiato anche la capsula, 1, 2, 3, 4, pompa. Io qui ti sento bene, facciamo Pomponio, un giro con gli amici che hanno qualcosa per poterti dare un riferimento, perché io qui per il momento non lo posso dare. Proviamo con Mario, avanti Mario. Mario, poi ascolti il tuo di modulazione di segnale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come segnale per essere la casa tua, Santiago 7, Radio 5, non perfetta però, non è quella radio bella squillante. Io te la sento, sono meglio se tu che c'hai un po' di raucidine. E va bene, di pensare che io sto pompando con un microfono normale qua, E quindi il microfono ma piccolino di quelli tipo quanto posso dire, quelli che del VHF portatile. C'era quella capsula piezometrica, gliel'ho cambiata e sto parlando adesso in questo momento a distanza di 15 cm. E la modulazione è molto più chiara, se io me la avvicino pompa di più, sembra un microfono amplificato. Adesso sono a distanza e dovrebbe essere molto più chiara. Pompa di positivo, sì, già va bene. Vabbè, tu stai modulando anche con quell'antennino e giustamente il segnale è un po' basso, perché come segnale sei Santiago 7 da quell'apparato con quell'antennino che hai tu, Anto me? Ok, dimmi. Mi senti, Antonello? Sì, dimmi Gianni. Ascolta, vedi che ti do la busta in un buio, 80 euro te lo sto dando, se non ti interessa te lo sto dando, lo volevi l'altra volta. Dici, se mi dai 80 euro te lo do via. Che cosa? L'arbusto 5000 di X come adesso. E va bene, là. Già ci mettiamo l'accordo così te lo ritiro, va bene? Ok, 80 euro non ne scalo neanche un corno perché ho deciso di non ripararne, Antonio, capito? Perché ne ho troppi. Però 80 euro pochi, ma le detti subito, prima che li pensi, perché che io mi rimetto ai piedi questa roba ce l'ho. Ehi, va bene, già te lo prendo io, là se me lo fate te lo prendo io, non preoccuparti. Così lo riparo e almeno torna come si deve l'uovo. Ho l'apparecchio a dove, cioè il microfono non ne ho di quell'apparecchio, me l'aveva dato senza microfono, però io gli avevo dato un altro apparecchio a dove, il microfono non me l'aveva dato, non so manco come sia, infatti ero sempre in attesa di ripararlo, poi gli avrei adattato un altro microfono, io come me l'ha dato perché non mi sono interessato di ripararlo, mi hai detto tu che ti puoi riparare, se non vuoi così come l'ho preso io, voglio quella cifra. Vabbè, già me l'ho detto io, preoccupati là, non per tutti i problemi. Ciao Giulio! Ehi, Marco! Me? Cioè, morro di incontro, me ne fai? Da tu incontro? Cioè, morro di incontro, me ne fai? Mettete il modo di apposta per gli altri compro 10 kg di cosa di cavo da fiore per peperoncino. Ah, va bene, è cosa il conto? Tornado. Se ne basta la grande, ne basta. Dico, cosa il conto? Io via. Ma cosa è il conto? Là, gli ha detto fa poco. Avanti, tornado, io sono entrato a dire una cavolata, dai. Prendi voi, ciò anche a Gianni, a Frappina devo uscire. Vai, tornado, mica, ciao. Sì, grazie amico. Da giusto per confermare a Pomponio, 10 minuti sono lì. Ok, va bene. Il QRT per il momento tornato, ci si sente fra 10 minuti e qui sul canale 21, grazie. Luca! Seria! Ok, io invece che il cavo è col peperoncino. Non so se lo sai, ma alla si sceglie tutto. Ciao Mario. Luca, hai sentito dopo tanto? Ogni tanto appari e poi scompari. Ma salutarvi, ci mancherebbe. Tanto pagami in una concessione ancora. Ma come la risale? E poi fino al 30 di questo mese. Mi ha messo come ci vediate di là? Ah, non lo so. Quello è capito, sentiamo dopo che sto uscendo. Faccio acceso qua. Luca, buonasera da parte di Cafe 2, buonasera. Ciao Cafe 2, anche a te, buonasera, avete sentito, capo. Sì, grazie, riprendi Pierpa. Ascolta, adesso in questo momento dove mi trovo, sono in basso. Sempre me ti sto arrivando. A me mi sta arrivando a fondo scala, Pierpa. Quando inizi a scaldare questa roba, voi non ci crederete, per un giorno lasci la macchina 1 o la QTH per parlare e vedete come arrivate a questo apparecchio. Guarda, è una cosa allucinante, c'ha una ricezione, peccato che questo c'ha 23 canali per qua, però le metto in WFO, le metto, devo buscare un WFO e gli installo il WFO. Capo, ma se io ti arrivo a fondo scala qua, Mario, come ti arrivo allora? Ti posso dire Pierpa, quando modula Mario devo mettere l'RPG quasi a zero perché lo butta tutto fuori dalla scala, va proprio inizia a oscillare la lancetta, a bomba, non so quante vitamine C gli ha messo, riprendi Mario. Niente vitamine C, perché se dovesse attaccare vitamine C da qui ci incendia l'apparato. Ma guarda che arrivi, ma sono io, guarda, faccio lo scemo, sai quanto lo so fare e mi piace a scherzare, però te lo dico, te lo giuro che se arrivi io è una roba impressionante, arrivi come mi arrivi tu. Cappa, cappa, me lo posso immaginare, guarda che sto modulando con un giocattolo, perché sto modulando con Galax e niente, gli apparati dell'apparecchio, gli arrivati dell'apparecchio e boom. E nient'altro. Mario. Goku. Uno di questi giorni a Castri 2, dici con attacchi di getta, dici che ci mantenga nella cadrea. L'ho detto, se dovesse attaccare il B2001, se sarebbe l'apparecchio si dice niente andando. Che io ce l'ho mai, se busco le valvole, cioè se busco già ce li ha, già calmo, il giorno che scendo a Terralba, vedi se, quando lo metto in funzione, però è inutile, ma se non alzo quella roba in alto, magari può pompare il segnale, rimane contenuto, e bisogna che ci sia anche una buona irradiazione d'antenna da parte mia, comunque non arrivi bene, anche così arrivi, ma no, niente di... Hai capito? A me fa piacere, non sono geloso degli altri, quando arrivano bene sono contento come che sia roba mia, riprendi Pierpa. Via capa, Mario si può sentire, arrivano da tutte le parti, non ce n'è bisogno Mario, già ti si sente abbastanza. Prego. Capa, sono contento. Capa, capa, avanti Falchetto. Buonasera a tutta la ruota, buonasera a tutta la ruota, bello, bello, bel discorso, Ti ha bisogno di un po' di vitamine, Falchetto, No, negativo, liscio come l'olio. E soprattutto il suo peggioro, gli ha dato, non il suo peggioro tu, gli ha rubito. Anch'io? Ma non c'è il Mike però, Fa una specie di pip. Infatti l'ho tolto adesso non va. Ciao, vedi? Punto, ho tolto. Ma che se no fai un bel periodo? Andà bene, veda. E beh, Cappe 2, buonasera. Sei Antonio, ben sentito. Ok, già ci sentiamo ogni sera, quindi siamo con la famiglia, siamo diventati. Ti ascolto bene con questo apparato, ascolto bene anche a te. È stato un buono, perché non funzionava, l'ho messo a posto. E per la ricezione ottimo, però è che riesco anche a buscare il WFO. se si mette il WFO allora diventa come già una SSB, però capito, diventa quel canale alfa e è un bel giocattolino, perché mi piace perché riceve a bomba. Non so se è rientrato Giuseppe, si era sentato una decina di minuti, proviamo a rimettere l'antenna, avanti Giuseppe, il microfono è tutto per te. Ancora no, e allora facciamo girare avanti la Superstation di Mario Manser. Con questa aggira lo smitter Capri 2. No, l'ho messo nel restegame, ma quando ti devo rilanciare metto la manopola al minimo, se no fa, cioè, fa tutto quanto in fondo scala, tutto quanto in fondo scala, cioè non lo posso lasciare così perché poi oltre alla, come si chiama, che abbassa, abbassa anche la modulazione come sapete, quindi poi quando parlano gli altri tipo Falchetto lo devo rimettere in posizione, alta di nuovo, altrimenti no, non riesco a ascoltarlo, ma comunque arrivate tutti bene, dai, riprendi Pierpa. D'accordo, sì, riprendo io prendere, io faccio una commissione, ce ne ascoltiamo fra una decina di minuti, dai. Sì, perfetto, anche io rimango 5 minuti in quel ricchese, un attimino, riprendete voi Mario, a te il cambio. Vabbè, non ci sono problemi. Antonello, ci sei? Antonello non c'è, riprendi tu perché? È positivo, positivo. Anda bene mela. È così gli apparati, da un apparato all'altro cambia Mario, non c'è niente da fare. Gappa, questo è un altro, questo qui è l'altro. È positivo, è una grande anche quello Mario, non ci sono problemi. Sono contento, là. Vuol dire che tutto funziona ok. Io spengo uno, dico l'antenna e accendo l'altro. È positivo, positivo. È così, va bene, va bene. D'accordo, d'accordo. Giuseppe, in BM non è perché è andato a ritirarsi l'altro apparato da poco. No, così, va bene. È importante ritirarselo, Ma non ho sentito se il lavoro sulla barra è stato fatto. Sì, ma... Tutto a posto allora? Sì, tutto a posto. Ho detto la barretta sotto, avevo lasciato il buco perché sono c'entrava l'antenna nuova. Ho parlato di palazzino mio, l'ho inventato il mio, prima di metterci il suo è stato il mio. Ho detto che rendeva bene, quindi è tutto quanto a posto. Figurati che l'antenna era sotto quel coso che c'ha lui e usciva per lo stesso, a Savino 9.30. Gappa, ascolta, domani tu devi venire, già lo sai, ma non so se tu vieni anche a casa domani. Ascolta, domani bisogna che vieni tu a figliarmi naturalmente per andare di là. Per venire a casa te, dimmi cosa devi fare. A fare, c'è qualcosa da provare, il 606, quello mio, e poi era per guardare di abbinare qualche microfono, perché così faccio deviazione di antenna e ogni tanto ne faccio funzionare uno. Porta per quello là, fai una cosa, portami quel commutatore antenna che ti ho detto io dove c'è di là, io ti faccio la commutazione con quell'aggeggio che ho io, ti faccio il foro e ti faccio il commutatore antenna per AT4, perché con tutte quelle cose, tutti quei capelli che c'hai, a Giovanni si comprende tutta, capito? A me per fare gli apparecchi. Figa. Aspetta, si è staccato il cavetto, dopo fare la fare che mi conviene farli qua perché mi viene meglio. C'ho tutto, capito, lì devo fare un casino per lungo e cose del genere. La fare che riparo qua, poi scendiamo giù a te, quello che sono problemi. Hai capito Mario che mi viene molto meglio qua? Gappa, d'accordo. Tu la ridito, non è la non sai cosa fare. Sali qua, mi fotti quello che devi portare a controllarti e poi scendi nuovo giù. Poi dalla di sera mi dice che la faccia a prendermi e andiamo di là. Dovrebbero andare con gli due. Va bene, dai, io vengo verso le 8 a prenderti, intanto lì è alle 8:30, 9:15, detto a tutti quanti essere lì. Di sera naturalmente, o di mattina? Che mangi quella cosa di mattina? No, tutto di sera. Sì, va bene, d'accordo, allora. Va bene, d'accordo, ci sentiamo. Ehi, non so qua, non so se sei chiudendo anche tu. Fa, non c'è problema. Ascolta, ho chiesto a una persona, ci sono dei Salerta, quello uguale al tuo, che stai usando nel Saturneco, 35 euro viene, e l'altro è uguale a quello che c'è qui, la stessa cosa. Ma microfoni già ne ho capito. Adesso devo guardare per quelli là, per quelli che c'è sopra, per quelli della BM, devo vedere semplicemente i microfoni palmari, capito? Intanto è giusto per accenderli e chiacchierare qualche volta, perché accenderli li posso accendere come tensione, però in antenna non ne posso accendere manco uno, capito? Ok, va bene, non c'è problema, va. D'accordo, intanto c'è una scatola piena di microfoni. E quando mi hanno regalato questo Esaverta, mi hanno regalato anche un poco di microfoni. Così guardiamo. Intanto ci dovrebbero essere anche i suoi originali. Attacca, ma già riperiamo, comunque non c'è problema. Che ci è rimasto? Capo 2? Sono qui, avanti! Parla, capo 2, pulita pure, vai! E ok, Antonio, ho messo in tutto, comunque, le valvole Torino ce le ha, Sasa, lo sai come mi ha dato? Ieri ho comprato un lineare, Antonio, e è entrato dentro nel laboratorio, quando la chiave non te ne pensi, poi l'ho aperto il pannello, ho portato la 509, lui ci ha infilato la 519 dentro. Non sono uguali. No, la 519 mi sa che esce di più. Io certo che esce di più. Mi ha detto di starmi zitto, è andato per retrobottega, ecco, lui mi ha detto sono introvabile, mi ha dato, non so se lo conosci ancora, un K1313 della Aram. Mi ha dato la fesseria, è 130 euro. Che cosa è lineare, no? È lineare, perché lo spirito si è scassato, i condensatori poi li ho trovati, li ho cambiati, Antonio, ma c'è qualche resistenza da fare, lo spirito, quindi la tua CTE. E in più là lo faccio guardare quando ho detto, infatti io mi ho detto, lo quelli che ho detto, non li do, c'è una vita. E ho preso questo della Aram. Capito, ci ti intermedio, non lo conosci, però Antonio, guardando, è preciso, al vivo 131 l'ha detta lì. Allora già va bene, là. Allora così già va bene. Ripigliate pure un attimino, cambio baracchino io adesso, sto con questo, e metto l'altro un attimino. E ok, no, niente, Antonio, mi interessa da solo per superare l'ostacolo che c'ho nella montagna, no, non per altro. Riprendi, ti rilanciamo adesso, e che dunque c'era Pierpaolo che si è assentato un attimo, rilancio a Falchetto avanti. È positivo, beh. Positivo al 100, importante sentirci Caprino, importante sentirci, pure il resto già si mette a posto tutto, vai, riprendi. Infatti l'ho comprato per quello, non per aumentare la potenza, perché io ci sono in condizioni con questo monte di non uscire, cioè di modulare solo con la parte opposta andando verso Cagliari. Purtroppo prima modulavo con Alfieri, Provangela, tutti quei paesi, però adesso non ce ne so. Anche con Sassari modulavo all'epoca, però non da questa postazione, da un altro punto che era più aperto ci riusciva a arrivare. Però qui sono legato, per normale mi ascoltano i pochi. Riprendi Mario. Mario ci sei? Se non c'è, riprendi Falchetto. Positivo, là. Quando ci vuole un aiutino bisogna darglielo, capito? Purtroppo il problema tuo è quella montagna, se no arrivi a bomba, perché io ho visto che da quando ha provato da oggi in DM stanno arrivando, vedi, una bomboletta, ed era normalissimo, la vecchia mia Sigma l'ho attaccato in macchina, giusto per fare in macchina, non lo attacco quasi mai, l'ho attaccata proprio per vedere se dalla zona di Ussi come è arrivato, stavo usando l'Intec 340S ed era anche voi, vi ascoltavo con un segnale notevole e niente, vuol dire che proprio la posizione, qui anche se era alto, non è che cambierà molta cosa, però la alziamo giusto anche per vedersi bene e anche l'occhio vuole la sua parte, io cioè, a tempo buono facciamo il tutto. Ok, proviamo a vedere se c'è Mario, se è stato forse sta cambiando l'apparato, non lo so, Mario ci sei? Scappa che ci sono, io sono sempre qui presente. Questo qui è l'altro apparato e questo qui non è il Galaxy, sempre due. Che fa che tu quali senti? Io sento un sottofondo, qualcuno mi parla molto, lo senti? No, positivo, era Mario, ti stava rispondendo, era Mario, non so se lo copiavi. È molto basso, ma ti sto copiando con quell'apparato, molto basso, non so qual è il fatto, e non so qual è il fatto, ti sto copiando molto molto basso, tenta di migliorare qualcosa, altrimenti è negativo. E poi dovrebbe uscire più forte questo. E in effetti confermo, sei basso Mario con quello, E prendi Capridù. Dammi un controllo a me Capridù. Sì, Capridù. Già ci sono, già perché, già ci sono. Ok, sono qui, sono, sto aspettando che gente stasera, se vengo, se no mi arriva di nuovo a quello stasera. Che apparoccia. Dammi un controllo da quelle coordinate dove ti sto arrivando. Sì, io Santiago di 5, mi arrivi una radio 4. È positivo, dai. Già va bene lo stesso, dai. Com'è il mio segnale lì, perché guarda, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Segnale qua vicino, il segnale può suonare 2, e radio 3. Ok, ma c'è il mantellino, così è a tu. Positivo, io c'ho sempre quel bastone, capito? E ok, ma qui ci arrivi, e no, io c'ho l'antenna, c'ho la gran pelle, no. E non lo so se è sfruttata, ma io stavo comprando la mantova, ma non ci avevo il palo come si deve, montata, stasera era andata un'altra cosa anche, ma adesso per il momento lasciamo così. Già va bene lo stesso, già ti fai sentire, capito, non problemi, già va bene, tutto ok. Ok, guarda ora se va meglio. Mario, basso, basso, basso, sì, molto, molto basso. E così, 1, 2, 3, prova. Adesso è aumentata la grande. Cos'hai detto? Adesso hai aumentato la grande. Mi fa piacere, va. Quasi, già 9, 10, ti do, 9, 10 appunti positivi, picchi positivi. Cappa, sono contento, va. E forse ti senti Capri 2 adesso. E tu Capri 2, come mi senti ora? Sempre a fondo scala, adesso a fondo scala, va. Cappa, va bene, va. Più di così si muove. Sono contento, dai. Ok, io ti ascolto bene, poco fa di bassissimo, vai, adesso va benissimo. Ogni tanto bisogna smuoverlo questo qui, perché sennò è un macello. Sì, io lo stesso, lo lasciarli fermi, che costa, tu mi dici, quei picchi è andato, mangialo in ricezione, sono riuscito a fare qualcosa, adesso piano piano lo guarderò in trasmissione, era un peccato di apparato, era. Il re degli apparati degli anni 70, lasciarlo fermo, si sa qualcosa, perché le valvole le hanno cambiate, magari si hanno esaurite anche col tempo, o si è starato, comunque, quello già me lo metto a posto, l'altro l'ho proposto all'inizio, l'Albus, glielo do, ho detto, mi devo 80 euro e te lo sto dando, tanto non riparo. Gappa, gappa, vabbè. l'altra volta non ne vale la candela, aggiunge 20 euro e non compriamo un baracchino. È vero, quello, ma siccome non voleva lui l'altra volta, me l'ha chiesto lui se glielo dà, poi io so che non lo vuole, non c'è problema. Ma se ti va bene, già va bene, vuol dire, altrimenti non sono da niente, comunque. Stavo pulendo tutto qui, salvo la stazione, c'era un macello, si è infilato nel ginocchio, sono riuscito a farlo passare dentro la guaina nel muro, perché era in mezzo ai piedi, e così. E mi ha telefonato questo rianimatore da Corso, da vicino a Rovigo, da lì, perché sapeva che c'avevo il PC 312 a vedere se glielo vendevo, e sono così a darglielo lì. Ma lì si sentiva, va. Cioè, ci fu dubbio, io ricevevo la rianimatore tutto quanto, poi mi ha detto, signor Giacomo, lo prendo, ha detto, sono interessato a acquistarlo, e ho detto, volevo vedere, sono così a darglielo. Vai, e te ne dici uno sagattami. E così mio figlio ha detto, io gli ho fatto un prezzo così, detto quanto l'hai volevo, gli ho detto così, a buttarla, ho detto 150 euro lo sto dando via. Cioè io non lo uso, capito, non mi interessa, però sono così, né sì e né no, gli ho detto Natali. Fino alla diamantoria riceve tutto quanto il campo di gambe d'onda, perché lui ce ne ha tanti e non riesce a trovarlo e colleziona queste cose. Io ce l'ho, però sono così indeciso. Tu ne volevi acquistare uno anche, no? Ti posso dire già che non si trovano. Già si trovano volendo. Poi mi ha detto che ha cercato anche le fiere e non ce ne sono. Siccome le vado ce l'avevo e niente, boh, non lo so, perché io già ho dei cataloghi, ma sono vittima tali di cose, di quelli di Cinque Elettronica, c'era questo Angelo Montagnani lì a Livorno che ce li aveva, ma sono cataloghi degli anni 70. Sì, basta, io l'ho trovato anche su internet, l'ho trovato, però non ero sicuro a vedere se c'è il coso, il SSB, per poter ricevere le gambe d'onda dei radiamatori, capito? Sì che le ricevo, io con lui le ricevo, sì che ce l'ha la SSB. E allora già lo trovo io. Quanto si può valere in internet? Non lo so, adesso non ho guardato il prezzo, non me lo ricordo. C'era ma non me lo ricordo, non ti vorrei dire una fesseria. Io mi devo informare, lui mi ha chiesto se io glielo posso anche dare, capito? Se non ne voglio una cifra, una cifra così approssimativa, Natali. Epa, già si trovano comunque. Capito? Io l'ho trovato. No, siccome lui ha se ne trova, no? Io ero così, cioè perché io non lo attacco perché mi piglia un sacco di cose, hai capito Natali? Quello funziona il mio a 110 volts. Sì, già lo so. Quindi cosa mi dice 1004? C'ho gli AISU, c'ho come... E niente, però lui ha telefonato ed era, hai capito... L'ho buttata così, ma perché tu mi hai detto adesso che ci sono in internet, adesso guardo a vedere che quanto si può valere, perché qui non ce l'ho, ma la mamma intervento, qui sto scendendo cosa si vale, ogni ora ci aveva tutte le gambe, 80, 40 metri, c'ha tutte le gambe d'onda. Ok, riprendi Mario. Tutti in ferro, ma hai visto le valvole in ferro, Atari? Ehi, già le ho viste. Questo era pensato se gli manca il cofano perché l'ha piantato su un aeroplano, sono tutti dei piani schimili, se c'è anche un dubbio ce l'ha. Ciò che funziona a 110 e capito io, dovremmo attaccare all'autotrasformatore del cofano, capito, non ho altro, infatti gli ho detto, se glielo prendo, detto non gli do l'autotrasformatore perché quello lì fa parte del COSAT 25B e non è ovvio, l'ho comprato così com'era e me lo alimentavo con l'autotrasformatore che c'era qui e che sto alimentando peraltro questo apparecchio. Ok, c'è cosa in parcheggio, scusa parcheggio, io sono un po' rimandito, mi ci riprendi? C'è problema, Salottoni Natalino, non c'è problema, già piace anche ascoltare queste cose, no? No, non è quello il problema, riprendi Natalino. Yeah. gamba. Va bene, va. Sono andato al cassonetto, ho buttato la montezza, poi sono entrato al bar, ho preso la colazione, ho preso una bella frittella, il caffè, poi piano piano sono andato al fornitore, ho messo gasolio, sono passato a casa di Giuseppe, abbiamo piazzato l'antenna, era verso mezzogiorno e qualcosa, me ne sono tornato qua, cucinato, ho mangiato e dopo mi sono tutto coricato, mi sa c'è qualche qua che stavamo parlando. Io appena poi a mette mi volte sotto tutta perché sono rientrato e niente, ho detto dice dovere chi c'è il bu, ma io con qualche mi sembra che erano queste e mezzo stavamo già chiacchierando. Poi non è colpa mia se non sto lavorando, no? Se no io già lo sai fino a mezzanotte. Adesso purtroppo sono in ferie forzate. Vabbè, ma è una battuta che ho fatto così, perché era giusto dare una battuta, e sì, perché la mia non era una battuta lo stesso, poi hai... Purtroppo il lavoro quando si chiama bisogna andare, e bisogna finire un buon posto. Se no, Giulia! Sì, Giulia! Quello è poco ma sicuro. Uno ha il suo lavoro come la tua, ma se lo deve tenere conto. Gatta, gatta! A Vela 2 sta tanto, sì, avanti Vela 2! Chiama Vela 1! Ma perché ce ne siamo dimenticati? Il parcheggio, c'era anche Antonio, non so se c'è ancora. Avanti Antonio, se ci sei. Si sono assentati, riprendi dalla Capri. Sì, riprendo io, no, mi ricordo quando che facevano quelle ittisi, poi non so se prendiamolo per rientrare, comunque noi siamo qui, siamo, l'abbiamo capito, parlano di più e del meno, ma se vogliono entrare il canale è sempre aperto, il passaggio parla, non ce ne fa perché bussino e noi apriamo subito. Gatta, gatta, oh Capri, guarda che lunedì mattina verso le 9 dovrei essere vicino al gruppo TH. Ok, però io sto lavorando a quell'ora, ma non so se mi becchi. Capo, no, mi hanno detto di andare a caricare alle 8, lì d'accordo, da mezz'ora, e devo venire lì nei pressi del posto piazza, là, dove stanno facendo quelle vie a schiera giù, vicino al campo sportivo. Non so dove sono le ville, ma hai capito, però io la mattina a quell'ora sono ancora in giro. Capo, no, io te l'ho detto così. Perché vengo a visitare nuovamente il tuo paese. Ok, no, se non lo sei, capito, ma perché io ho l'asilo e molte volte, hai capito, facciamo anche più tardi di quell'ora, cioè non ti posso dire né sì e né no, comunque già sono in zona anche io, solo che non c'ho baracchino, capito, se mi chiami non c'ho baracchino, perché con i bambini dell'asilo non abbiamo orario, hai capito, quindi l'orario preciso non lo so a che ora termino. Capri 2! Avanti! Perché anche la domenica ti fanno lavorare? Domenica no, lui mi ha detto, ma domani hai detto, lunedì mi ha detto. Cappa, lunedì mattina. Io guarda, è fino a domenica, già fatta. La domenica ho lavorato fino a sono riuscito alle 2 oggi, capito? No, io c'ho così spezzati, capisco gli orari, però domenica mi riprendo riposare, riprendi pietà. E a capo, sono rientrato, ho sentito che dovevi andare, come sono rientrato ho sentito che doveva portare il bambino all'asilo, ho capito dove portarlo male. No, venga tu, se mi pagano già vado, se mi pagano pietà, già quando ero attentino, mi ho fatto il mese di luglio tutta una tirata senza pigliare un giorno di riposo, e ci stava prendendo gusto l'amico, tutta una tirata, anche le domeniche non ho nulla, non ho riposato nulla nel mese di luglio, no, niente, la domenica è fatta per riposarsi per i bambini, l'asilo non ne ho neanche il sabato, però durante gli altri giorni della settimana ci sono i rientri della scuola media, delle elementari che c'è la messa e l'asilo che alle 4:20, quindi hai capito, tranne nel sabato che l'asilo non c'è. Ok, riprendi la parità. E allora, anche la domenica bisogna lavorare, cos'è questa azienda di non lavorare? Bisogna produrre. Io che l'affogato mi ha già fatto un salmese, ne ho portato nel quarto su, adesso gli ho dato un basta come ho comprato l'ultima ancora questa Giglio ieri, e la 50 devo comprare altro perché se no, capito, arriviamo male, perché poi all'estate io a giugno finisco e non sono pagato, già lo sai come io ce l'ho in appalto e niente, che devo anche conservare qualcosa, la denuncia del reddito, di queste cose, arrivano con le tasse da pagare e non si può, e quindi no, se c'è roba la domenica, qualche lavoretto io già mi impiego, già lavoro sempre, perché tutto è bello a Canarado, mi piace spendere, però mi piace anche lavorare, capito, non mi sono mai tirato indietro col lavoro, riprendi Mario. No, per il positivo, bisogna sempre lavorare, perché se non lavori poi i debiti ti mettono soltanto. Speriamo che non ne arrivano altri, poi tassa di soli di un pane. Ecco, vabbè. Adesso vi ho fatto un contratto nuovo con l'Enel, mi dice che abbassa diciamo qualche euro in meno. Come lo prima, sono passato in quello. E poi tante altre cose di casini della TV digitale terrestre, che ho speso una cifra con le antenne migliori, qui non ricevevo, ho dovuto comprare il satellitare, perché è una parabola, ecco, lo satellitare del TV digitale di quegli ultimi usciti, se no non vedevamo mai con la televisione, quindi sempre da lì esce, sempre da quel salvadanaio. Riprendi Antonio Falchetto, ti rimetto il cambio, vai. Falchetto in QRX, avanti, che fa? Capo, anche a me fino a 2 anni fa, quando mi pagavano il sabato sera, lo lavoravo perché c'erano i soldi, adesso non me ne pagano più, e allora il sabato sera non ci lavoro, perché a lavorare gratis no, non ce n'è. E 2 anni fa, fino a 2 anni fa, lavoravo il sabato sera, e anche fino alle 7:30 e 8. Però da che non ci sono più soldi non si lavora allora. No, quando è così, Pierpa, quando è così io, quando ci sono i soldi già lo fa, già faccio tutto. Hai capito? Anche se io faccio un'autista, sto facendo un'autista, un'autista conto mio, però se ne chiama uno, mi vado a canare con pole, se mi paga ando a canare con pole. So pigliare molto picco, so pigliare picco e pala, so fare tutto perché ho lavorato anche in impresa. L'importante, ho sempre detto, i soldi che guadagno quando sono messi vicino a quelli del dottore sono sempre euro uguali. Capito, li lavorerò più sacco, più con sacrificio, però sono sempre soldi, quindi non mi piego, a me vogliono mettere da fare stecchini, faccio anche stecchini, un'ipotesi, l'importante è che ci siano i soldi, perché non bastano mai, stiamo arrivando a un coso che tutto quanto è caro, però gli stipendi sono sempre gli stessi, riprendi Natali. Sì, già è vero. Bismani, dice gli inglesi e gli americani. Però è Mario che quando vai al supermercato, capito, per il prezzo salire lo stipendio è sempre quello. Già per il positivo, quelli già aumentano sempre. Lo stipendio è che va la parola. faccio un paragone, in frutta e verdura non ci si può più entrare, in frutta e verdura poi nelle pescherie, io quando vengo delle sardine a me mi piacciono, ne ho visto molte volte e le ha messe anche a 10 euro questo qui, ho detto ma quando era in lire, ho detto non ti ricordi perché quanto costavano, per 2000 lire fresche te le tiravano in faccia, te le tiravano. Ma infatti adesso si possono comprare manco più sardine. A me non posso, prima andavo, si comprano 2-3 kg di sardine. E bene o male la famiglia mangiava. Poi di manco più sardine si può comprare. E adesso ti dico una cosa. Mi è venuta voglia di fare quelle fave, capito, bollite, aglio e olio. A revisare la Ramonosi, beh, è andata, le ha comprate un chilo, 3 euro, quello roba lì, e molte volte ce ne sono anche 2,5, 3 euro un chilo di queste fave secche, che fame a rie proprio, capito, le abbiamo comprate perché le avevamo buone. Io le volevo fare come lo con piedi di maiale, perché ho anche macelleria, però poi ripeto una roba troppo pesante, non ho detto più maiale, così, capito, perché poi mi fa salire anche il colesterolo, come va, ma abbiamo fatto a 3 euro, tira tira, ho detto, lo stavo per dire una volta, le mettevano agli asini, sali tra la Natalia, ti ricordi? Io le ho fatte l'altro giorno, le ho fatte, pizzina. Non se ne può comparare, la sagina è cara, i mattezzi, è tutto caro oggi. Prima te le sbattevano in faccia queste sardine. Oppa! Addirittura mio fratello già gliele danno, ma mio fratello è pescatore, capito? E lui le busca sempre volendo. Però sono care, ma la sorte. E tutto, io quando vado in pescheria, la tali lì, io vado, ce ne ho un vaso, tanto non ne compro in due, però ho fatto roba fresca, tanto non sono salito e ho comprato le zirri, erano 6 euro, per 2 kg me ne ho fatto dare, e poi c'erano delle trigliette, altro per 2 kg, capito, un po' di insalata, e per noi va benissimo, siamo in tre perché il grande vive da mamma, che c'ha lo sogno suo, vedi, studia la musica, però per cui non è opposto, lui è sempre in più da quando c'è stata mia sorella, quindi siamo in tre Natalia e per lui va più che bene, hai capito? Però non posso esagerare perché molte volte anche quando mi sono detto ne compri un chilo, poi mi friggi un po' a pranzo, la sera non ne ha più voglia nessuno e finisce che rimane il primo dei giorni e poi ce lo devi buttare, no? Perché tutto è caro, anche la verdura, la frutta, guarda, io ce l'ho vicino a queste verdure, poi il prezzo, però mi fa vedere anche le fatture che anche lei la paga perché è cara la roba è cara perché non hanno messo l'euro in giro e non hanno controllato i prezzi, prima avrei controllato i prezzi, quanto costa questo in dire, costa tutto e avevo fatto il continuo, invece no, costa 1000 euro l'ipotesi, è aumentato il doppio, non hanno capito che un euro sono quasi 2000 lire, riprendi ma. Se puoi, grazie. Avanti. Saluti. Mi ascolti, sono in macchina. Già ti ascoltiamo, beh. Perché passo il pagone del baracchino. Buonasera Natalino, Mario e Capri 2, semicotti, cambio. Arruinato Bilasa Giuseppe. Vedi Natali come l'ascolti tu. È tutto strano. Io già lo ricevo, non so dove si trovano. A parte gli scherzi, con un Santiago Ferri la radio è buona, dai. Non so dove siete, altrimenti li metto il cambio, poi fai girare per gli altri, c'è Mario, c'è la Falchetto e anche Pierpaolo, qui mi arrivi Santiago Pè, Radio 4, però senz'altro siete in movimento, li prendi? Siamo qui in via Ricinetto, niente, vediamo un pochino gli altri come li copiano per cortesia. basso, 9.20 radio 5 da questa parte. Cappa! Anche io adesso lo ricevo bene, da poco fa, deve essere non avevano schiacciato bene il mic, già lo ricevo bene anch'io adesso. Ok Natalino, avanti Capri 2, dai. Ok, adesso ti ascolto bene, ti ascolto con un Santiago di 5, ti ascolto e una radio 4, Giuseppe, non so se tu mi ricevi bene, vero? Capa, Capri 2, diciamo che la radio è accettabile per la posizione in cui siamo, dai, va bene, l'importante è sentirci, avanti chi stava parlando? Ok, rilasciamo a Pierpaolo, c'è anche Pierpaolo, Pierpaolo riprendi, non lo so, c'è Mario, ti mando avanti Mario, Mario, avanti Mario. Faccio. Chi è? Fatima? Avanti, ci vuole entrare. Batti Mario per Giuseppe, come lo occupi Mario? Io sto zitto in breve, ti sono ascolto bene già. Buonasera Falchetto, da parte di Tornado, cambio, ti sento forte e chiaro Falchetto. Cappa di Rogero, anche a te forte e chiaro, alla grande, stai uscendo alla grande, anche Mario ti ascolta bene, c'è stato un break, facciamolo entrare, avanti il break, negativo, riprendi Mario. No, stai chiesto un controllo per favore, ma se mi vedete che tu non lo senti. L'ho sentito un attimino, e vabbè, dai, falli entrare per il controllo tu Mario, vai. Avanti per il controllo. Stai usando basso, sì, molto basso, sì. Santiago 5, radio 2. Via, d'accordo. Vai Giuseppe, io qui comunque ti ascolto bene. Ehi, siamo contenti. 9.10, radio 4. D'accordo, sono contento. Anche io. Quella modulazione la fa meglio Giuseppe, Popò, non ti offendere. Che bello! Ma Popponi è così perché è sempre tutto gonfio! Ma sempre gonfio questo Popponi, raga! Dove va il microfono, Natalì? Ah, va bene, il mio bene va il microfono! Vediamo bene, va bene! Io ci ho messo la capsula del citofono qua a me! Hai capito, per uscire un pochino più forte! E questo microfono riconosciuto hai, mi dillo una cosa Giuseppe, che microfono è? Ma si riconosce. Come? Don Bruno, tu riconosciuto l'hai? Ella. Che ragava. E che? Avanti il break. E ok, buonasera, pochissimo nuovamente. Ditemi se sto uscendo, grazie. Se ti ho risposto vuol dire stai uscendo, ciao Bacchi, buonasera, ben entrato, Natalino sono da questa parte. Sì, ciao Natalino, buonasera anche a te, buonasera anche agli altri. Ok, vuol dire sto uscendo, che segnale ti sto arrivando lì, in quelle montagne? Ah, il Bacchino. 9.20 qua, 5.9.20 K. E beh, allora, chi è che ha salutato la sovrammodulazione, avanti? Bacchino, buonasera, il Barrado. Sì, Barrado, Antonè, buonasera che è lì. Ben accoppiato. Con Natalino però accoppiato, non con me. D'accordo, d'accordo. Bacchino, Bacchino, gare non si sa. Non lo sai proprio, non Mario. E allora, Bacchi. E allora, Santa Mario. Tutto bene, tutto bene. Meglio così, meglio così perché sì. Meglio che vada sempre tutto bene, se no è un casino. Se no si sanno male guaio. Ma poco fa io stavo ascoltando a Capri 2. Dopo se mi ascolta Capri. Non arrivo a dopo Porto Toro, no, a dopo poter scalare in gioco, non ci arrivo. Inter di Auro. Buonasera Battisio. Ma sera, aspetta un po', attenti, metto adesso, mi sembra che si falchetto, avanti. È positivo, è azzeccato al centro, buonasera, buon tutto, da parte mia. Ok, rilancia Capri 2 se ti ascolta, vai. Capri 2. vivono in quelle parti lì. Ok. Questo sono piccolino. Dove sei adesso, Bacchi? A casa. Positivo, no, poi arrivi bene. Io sono all'opposto della tua, la tenosa, capito? Dovresti arrivare da Cattivo, forse non è all'apparato. Gianni, ci sei? Dimmi. Gianni non c'era. Quanto è la base numero 3456? Nove radio 5. Mappa. Andrà bene. Sono in movimento, qui, sono di fronte al centro commerciale azzurro. Sì, io ho fatto se adesso è in questo momento. Poi 35. No, non vuole, Bacchi. Bella, 9.30, corretto, 5. Ok, già va bene. Io quanto arrivo a Bacchisio? 25, non di più, la radio è 5 la tavola. K de Roger la 100. Riprendi Mario? Ah sì, non riprende. E io come ti sto arrivando, Bacchi? No, senta, ma la radio non mi piace, è metallica molto, l'ho ascoltato l'altro giorno, è metallica. Guarda che non è le mie il carne più due, no? Questo qui, come fa a essere metallica? Io credo sia un po' metallica. Ma non ha niente a che vedere con il carne più due, questo qui. Questo è il giorno più 3. Bene, 9.60. Marchisio, mi senti? E a chi è questo che mi ha chiamato avanti? Pedro. 9.30 questo qui, è troppo saturo per mia. Sono saturo io? Adesso sei limpido e chiaro, stavo ascoltando, forse adesso provo a qualcun altro. Sì, non ti ho riconosciuto, scusami. Pierpaolo Vera. No, Pierpaolo, buonasera Pierpaolo. Sì, no, 9.30, Radio 5. Ah, questo è il TAR, metallico è il TAR. No, non è metallico. Ciao, Roger, avanti. No, questo è il meglio per la radio. Sì. Bella la tua, Mario, la tua è proprio limpida. Appagata, sono contento che tutti mi ascoltano bene. No, è proprio pulita, bella, proprio una bella radio. Insomma, io avevo la migliore radio di Sassari e sto facendo uno schifo, che maricano. Ma fate tutto, Natali, ma fate tutto, compare Giardino Lugo. Natali, sempre da quel di me. E non saranno. E a gusti, lei. Ehi, non è così, come ti sei disegni tu. Dai, mi stai uscendo bene. Ah, perché sei permaloso? Sì, no, perché io, la mia era una delle più belle radio di Sassari. E poi, cazzo, mi dicono che riesco mai a farli con questo microfono che costa più di un baracchino. Vabbè, ma il microfono può essere pure difettoso. Pagliappa, non te la prendete, stiamo scherzando. Comunque, se butti via tutto, quando me lo dici, io passo per lì e raccolgo tutto, E facciamo così. Cos'è? Che prendi via qua? Ci fanno avanti a raccogliere, ma io gli ho detto a Natalino perché è un amico e poi già mi conosce Natalino. Davvero. Comunque, c'ha un accordatore d'antenna che io gli ho detto quando tu è il mio. Vero Natalino? tu c'hai il tempo per dedicarti a queste cose, io purtroppo il tempo non ce l'ho, sto sempre correndo alla bassa razza, arrivo, è nulla. Lo so, anch'io quando stavo lavorando stavo correndo da una parte all'altra, ma tu c'hai sempre più tempo di me, là. Perché io bene o male sono sempre impegnato. Anche io, amico, ci sono lo stesso, anche se non stavo lavorando, ricorrendo da una bacca all'altra, chi mi riuscirà una cosa urgente. E se mi capita con la prova a giugno, se non ero a posto, non potevo farlo, capito? E gappa, e ti ho sentito l'altro giorno che adesso ci vuole un altro documento, che la patente non basta più. Sì, oltre che non basta più la patente, ne abbiamo anche un'altra di patente, non basta neanche quella, ci vuole una carta, tipo una carta di credito, che serve per segnare tutto, nel senso che si mette dentro il tachigrafo digitale e ti segna tutto, velocità, tutto quanto, non ce ne sono più dischetti di carta adesso. Quelli nuovi, anche quelli vecchi si devono mettere in regola, devono mettere il tachigrafo digitale, se non è quella non lo puoi portare in mezzo, se no te lo sequestrano, se ti trovano senza quella. Ma è Natale la carta? Tu è tutto fatto, era. Dove sei andato a farla? In via Roma, perché ho telefonato a quel numero, quello che conosci tu non c'è più lì, però le fanno lì, sono andato, l'ho fatta. Lì, tranquillo, anche il KB ho fatto, tutto fatto in una lì. Il KB hai fatto? Sì, perché a me praticamente per quel versamento che non avevo fatto, non me l'avevano dato, io ce l'avevo praticamente, e non me l'avevano inserito, allora ho dovuto fare due versamenti e ho dovuto pagare. E anche 40 euro a me mi è costata la soglia. E a me ugualmente. La colpa di un cretino che c'era lì al coso, allo sportello, che lo sapeva, manco l'ho avuto quella piazzata, poi me ne sono accorto in casa di quella roba, quando l'ho comprato bene, a me mi manca roba qui, ci manca il coso, se devo guidare un taxi o un coso di noleggio non lo posso guidare. E niente, la persona che ho fatto un casino di notte, lei dalla laurea mi ha portato il diploma, è andato nel canale, non posso fare due volte per gli sbagli suoi, ma no, sono un sacco di gente, quindi il Ministero dei Trasporti da lì è incassato di bello, perché l'hanno fatto a tutti questo giochetto, ok, riprende e fai girare. Infatti io me l'ho fatto, mi sono informato, purtroppo a me mi hanno fatto la stessa cosa, un pirla deve essere quello che c'è nello sportello, l'ho fatto apposta, l'ha fatto. Avevo trovato uno, ti stavo dicendo, senza il CQC, cos'è l'anibato? L'anibato, una macchina, e 780 euro di verbale, l'anibuscio. E come la stai attenti, allora io quella lì, in lì. Ceroni 55, il tachigrafo, ed è quello a dischetto di carta, e rimarrà quello, però se capita un, come si chiama, un pullman, il modello nuovo che c'ha il tachigrafo digitale, ma con il centimetro lo puoi portare se non c'è la carta. E infatti, Giuseppe a me mi voleva portare il suo, il mezzo, no, volevo mandare a casa, se non lo posso portare io, non c'ho la carta, la giudizio. Ah, ci vuole la butti dura. E infatti me l'ho fatta per quello, perché è tutto elettronico quello che c'ha Giuseppe, no? Anche il cambio elettronico, tu lo vedi, è bellissimo. Purtroppo non l'ho potuto portare perché non avevo la carta, quella carta lì. Avanti, chi vuole riprendere? Io riprendi. Rega, paga, ma adesso non sei in regola. Ma si voglia che tu mi controllo per strada. È un casino. Non mi deve essere sempre in regola. No, ma tutti sequestrano la macchina, no, così, no? E ti mettono un verbale non indifferente se ti trovano senza quella carta, un fulendisi. E quelli vecchi? quelli vecchi che avevano gli spaccati, adesso si devono cambiare quello del tachigrafo e si devono mettere quello digitale, così è. Anche i nostri luci, adesso se devono mettere in regola quelli che ce l'hanno in carta, ce lo devono mettere il tachigrafo digitale. Senta, viene questa buia, arrivo, e poi il bello è che se lo devono fare in fretta e furia, perché se no è un casino, che tenere il mezzo fermo costa un bel soldi, mi. Sì, già lo so, e ci sarà un termine per mettersi in regola, no? Come per la patente professionale che abbiamo noi, perché noi abbiamo anche un'altra patente professionale che si chiama 5C. Questo qui l'hanno provato senza quella, gli hanno sequestrato la macchina, gli hanno messo 780 euro di verbale, quasi il 21 euro nel buccio. A che ora ci ha fatto la motorizzazione, io quando mi rendi la pari barugata, che mi hanno imbigliato, mi sono il KB, cioè non me l'hanno inserito, capito? Io l'ho giocato a B, non l'ho giocato a B, nel Marisano. Eppure per un versamento non me l'hanno messo. Siccome non c'era il versamento, loro non te l'hanno messo, però a quel punto lì sono stupiti, perché bastava che te lo dicessero, guarda che manca l'altro versamento, e gliel'avevi fatto subito. E infatti, io ci cucicero da 2 anni fa, figurati. E cosa me l'hanno fatta a capire lo stesso scherzo. A tutti è arrivato, a me mi pare che non mi ricordo, non ha detto, e da poi io ne fatto di su quale voluto. Anche se ho perso di mezzo, non siete perché mi paga 2 volti. Ma lo sai quello scherzo quanto mi è costato? 40 euro. Ma è stata gappa. Purtroppo. Ma adesso bisogna vedere se questi soldi te li rimborsano. Perché il versamento tu l'avevi già fatto, è negligenza loro che non te l'hanno detto. No, non mi rimborsano nulla, quei 40 euro sono dato per rilasciarmelo proprio il KB, capito? Ma tardi, mi viene bilato al bu. E quindi mi hanno fatto la sera, devo portare un taxi, un bus bussava, pure se faccio la di pubblica, ma è compreso. Mi che sono merduse sono me. Cioè puoi bussare un pullman e non puoi bussare un taxi che è una macchina privata. Non lo puoi portare, neanche quelli, non è NCC, non li puoi portare. Se tu non hai il KB non li puoi portare, il KB non vale per quelli, solo per gli autobus vale. Mi ha dato magari una legge nuova, cioè se si può pure attivare le denari. E il CQC l'ho preso, lì c'è scritto C e B e basta, perché puoi portare 1.000 persone con quello lì. Se tu non hai quello ti sei portato nel mezzo, subito, e ti vogliono rubare il mezzo grosso. 6 mesi di sequestro c'è nel mezzo. Ma ti comprati in un mezzo da salvato da 6 mesi. Per carità, bubu. E purtroppo è già in vigore questa storia, molta gente negligente, non se l'ha fatto, e poi non può muovere il mezzo, come lo trovano lo fregano. Appagata. Un attimo di bianco per me che devo andare a cucciacca piccolino. Che cavagara, avanti Gianni. E la fai intanto, 40 a me, 40 a te, 40 agli altri e via dicendo, ma però lo sai perché l'hanno fatto l'altari? Se te lo dico io questa storia così, perché prima il campo non li rubavi assieme alla patente dall'ufficiale sanitario, da che cavolo era, capito? E però adesso ogni 5 anni bisogna andare a una scuola guida a fare il corso di aggiornamento, non sono mica scemi, non la tali. Non penso ce la facciamo fare noi l'aggiornamento, ma io te la diminuiremo. No, bisogna fare ogni volta che dobbiamo rinnovare, quando scade bisogna andare a una scuola guida da tali. Ma è una cosa quasi inaudita, perché la gente non si ribella proprio come si deve ribellare. fare, perché io ti ho già un anno mangiato in sequenza, perché tu, io vado al medico come andavo prima per rinnovare la patente, non è che devo andare a rinnovarmi la patente lì e pago una cifra, poi devo fare anche un corso per rinnovare il circuito, non lo vedi scritto. E quindi sono sempre soldi. Allora, se no, hai capito, è una cosa, lo Stato è autorizzato a metterti le mani nel portafoglio a rubare. Vabbè, nel 2013 a me mi scade il CQC. A me nel 2012, Natali. Però tante altre cose, con la signora Rai, che io, col digitale, con le antenne, Natali, io spendo un sacco di soldi, qui a Muro non lo si vede, sono dovuto ricorrere a cosa che con la Rai non c'entra nulla, non c'entra nulla a spendere altri soldi, però il bollettino delle 109 euro è già arrivato, hai capito, nonostante le telefonate che ho fatto, lì che non riceviamo a Muro, no, qui, il bollettino è arrivato, loro non hanno fatto nulla, io se non avrei comprato questa roba, Natali non li avrei visto di programmi, però il bollettino loro lo volevano pagato, quindi sono ladri autorizzati. Tu fra la disetta non ne paghi più, perché tu non lo vedi con le antenne normali, molto ci vuole, fra la disetta non ne paghi più, e scrivi anche la causale che non lo ricevi, punto. Io gli ho dato anche il nome e cognome, numero di abbonamento, anche che troveremo, Natali, quanti anni è che hanno messo il digitale terrestre qui in Sardegna. E stavamo sempre battagliando, ti faccio vedere Natali che stasera ci devo sempre la scatola, le antenne, le ho pulite, l'amplificatore, l'alimentatore, e sono dentro la scatola, qui non ricevi a Muro, se la do un'altra zona ricevi, infatti quella terra l'ha vento e non se ne parla più, qui ha le migliori da posare, soltanto un occhio nella testa, però qui un nulla, se no non rapportano il segnale a Muro, la RAI è stata sempre con le antenne negata, riceveva solo da Oslo quando noi col comune abbiamo messo il ripetitore, allora riceveva, se no era sempre negata la roba, poi si sta la roba via satellite e riceveva tante cose, riceveva. E poi la decollere sono spariti, li crepitano, hai capito? E io se parlo l'abbonamento devo vedere, che non è che tu crepiti e niente. E parlavano di digitale terrestre che io l'ho comprato subito, cioè con le antenne e niente, l'ho buttate via, comprate nuove, Natali da posare, ma questo è prima di Natale, mi Natali, che ho comprato tutte le antenne nuove. Niente, al giorno della vigilia sono dovuto andare a comprare la parabola nuova e corre il SAT per il digitale e sono altri soldi. Dimmi tu, io ho fatto la disetta, non l'avevo pagato, io non la ricevo il digitale terrestre, non li pago, l'avevo detto. Ma loro hanno detto che c'è il ripetitore, non so dove appuntare lì, ma lo sai il freddo che ho preso, Natali, sul tetto, il rischio anche che il tetto è pericoloso salirci sopra, e una roba, guarda, che mi ha dato ai nervi, ho preso le staffe, buonasera, guarda, gli ho saffida la politica, ho detto qui è una per la Fondilli, ma ha detto a Florina c'è questo, c'è quest'altro, ma io l'ho puntata a Florina, l'ho puntata all'Imbara, l'ho puntata a tanti posti, ho detto qui il segnale non arriva perché siamo in un foso, dovete provvedere, ho detto a mettere nuovi ripetitori vicini che capite in un segnale come si deve, è inutile che all'Imbara, sei qui, è come il baracchino, Natali, se io a un luogo non arrivo, ho preso, magari volte va su lineare attaccato, e così se l'imprenditore qui non ce la fa, bisogna mettere un altro per dare più segnale, cioè loro lo sanno meglio di me perché sono tecnici, gli ho spiegato un sacco di volte, invece no, e com'è la roba è rimasta, Natali? Ma per mettere un ripetitore ci vogliono i soldi, è quello, capitolare. Ma Natali, le 109 euro li vogliono, noi stiamo pagando l'abbonamento come quello che c'è il ripetitore sotto culo, diciamo, scusatemi la frase, stiamo pagando la stessa cifra, Natali. quei tecnici, ci fare venire i responsabili della RAI a fare vedere che lui qui non c'è segnale. Però la gente sì, lo sai perché non è stato fatto la tali, perché siamo tutti una massa di scimmie, hanno comprato tutti questa roba con la parabola e si vede, hai capito? E allora la gente lì è come quei cani che le legavano con le salsicce, lo prendono con la parabolica, e dicono che qualche uno si stufa, che li leva da lì, non riceve con l'antenna, non si vede e non si vede. E lo so che non si vede. Prima di riparare se non avrei pagato io, ma tutti brusignano a un immago. Avrei fatto la disetta e via. Tanto non vedi con sapere che cosa cazzo te la frega. E con questo che ha preso adesso, perché l'altro la sta lì, con l'altro sasse che avevo, che ce l'ho ancora, e quando c'era un film lo criticavano, c'era la partita la criticavano, una cosa in Eurovisione, e la levavano, ecco perché ho dovuto ricorrere a comprare anche questo altro digitale terrestre, e mio figlio me l'ha fatto comprare, e c'è una scheda, ho detto, non voglio che mi arrivi qualche abbonamento, e siamo attenti, ti racchino nella scatola, che è gratis, che qui e là, poi ti speriamo che non mi arrivi qualche altra cosa da pagare. E non come hai pagato quel digitale? E in realtà io l'ho pagato 89 euro da Conforama, è bellino, e più ho dovuto comprare la parabolica nuova, perché a cui era salì poi di questa parabolica di leparla, di piazzarla, si era rotta, era rugginosa la stampa di fissaggio, e la vite che era 6 gradi era rugginosa, e si è rotta anche quella vite, e quindi ho comprato antenna e parabola, ho speso 125 euro. Digitale terrestre, dico. Due me ne ha dato. porta, le due, una sembra un'antenna, una direttiva di quelle di baracchino di 144. Ok, va bene, guarda, che le ho preso tutte e due, le ho messo la scatola sua, sono, e se qualche due, la cartella per esempio, dicono che le ricevi, se qualche due le vuole le vendo, non pare avere problema. Io ce la ricevo ancora con quelle vecchie. Ci va della Taricato, è buono, lo so, noi qui siamo proprio negati, negati. Io invece se non posso non mi chiedere che ti trovi inutile. È come il telefono cellulare, se non hai la cella vicino non ricevi. Sì, ma lo potevamo mettere anche con i ripetitori a usino loro. Ce ne sono tanti, quando me la Rai non poteva installare un ripetitore a usino. Lina, non è rigore, non è mai su conto. Ma i ripetitori ci vogliono soldi, ci vuole manutenzione, ci vuole questo, ci vuole quello. E quindi, io lo metteranno, ma la Rai a dire, ma quando però? Mi sono pregato, Lina, ma sta lì. Ho detto che noi siamo stati sempre penalizzati per la ricezione, sempre penalizzati, capito? Poi è uscita la parabolica, è uscita e allora si vedeva, perché non hanno lasciato in parabolica il segnale. Allora lui, come lui ha dato che c'è il satellite, per usare tutti i satelliti indistintamente, ma... Ma stavo dicendo la tarima prima perché si vedeva con la parabolica. Io vedevo la parabolica e c'erano i canali, perché questo digitale? Cosa mi rappresenta il digitale terrestre con le antenne se sono dovuto ritornare alla parabola io? Che non ti rappresenta niente, ma loro rappresentazioni, se no come facevano a vendere i digitali terrestri? E anche quello sarà una cosa, boh, perché se riceve loro un abbonamento, glielo stava pagando, perché con la parabola riceveva, e tu oscuriamo il segnale, leviamo quello, ma perché si vede che magari il segnale inviato, in come si chiama, il satellitare le costa una certa cifra, non lo so se per quello, non me ne intendo io. Hanno fatto doppio cosa loro, doppio numero di trasmissione hanno fatto. Io che hanno fatto comprare a tutta Italia questo tavolo di digitale terrestre, perché se no bastava di tutti compratevi il ricevitore satellitare e lavorate via satellite, e si vede anche meglio via satellite, non hai problemi, non hai niente via satellite. Io Nataliero esasperato, non da loro ma con mia moglie, perché non riceveva, non c'era, capito, mi dovevo andare a letto presto, magari mi accendevo il baracchino qui, quella lì era incappolata, perché in tutto il giorno non vedevamo una, ma anche con questa roba Natalì della digitale terrestre con le antenne, anche gli altri canali della Mediaset erano disturbati, sparivano, si deformavano, hai capito? Era diventata una cosa irricevibile, non solo Rai, ma era mattutto, perché il segnale non arrivava. Perché la Rai è una cosa, Mediaset è un'altra, e quindi ci vorrebbero anche ripetitori di Mediaset di tutto l'altro emittenti vicino. Vai tu a mettere tutti i ripetitori. Capito? Come facevano meglio, ci risparmiavano soldi, perché tutti volevano il satellite e volevano tutti i satelliti, non c'era bisogno di questo capo di digitale terrestre, ma loro evidentemente era questione di soldi, per far comprare il digitale terrestre a tutti. E allora, hai capito, va bene che ti ha costato poco, è costato una trentina di euro, una tariffa è costato, e non l'ho pagato molto. Quello delle antenne, però l'altro l'ho pagato 89 euro, l'ho pagato e più ho potuto mettere la parabolica, perché l'altra finché era attaccata la sta lì, riceveva bene, poi smontata, si è rotta la stampa, si è rotto la vite che dà per grandi, che c'è l'antenna, c'è l'occhio buono, tutta la parabola, però la stampa, hai capito, quello che ha parlato, vedi anche la parabola, poi, e non è per tutta l'antenna, non ne parliamo più. e così nell'altra osservata qualche cosa servirà. E così ho sentito anche Anni stasera sta parlando a Porto Torres. Funzionano bene questi. Io tengo sempre conto, poi c'ho tutti quelli manuali, c'ho quello MQ2U, c'ho ne ho due di quelli, poi c'ho l'altro meno da Palmo e il Turner P2, c'ho, hai capito? Ma quello lì lo stesso, è smontato dagli anni 70, l'avevamo smontato proprio perché c'è qualcosa sulla carta, ma poi mi ero arruolato all'epoca, è arrivato dentro una scatola ed è ancora così. Tu immaginati quanto è lungo il mio braccio, io sono per parlare con te, sono girato dall'altra parte al computer, stiro il braccio e sto parlando da lontano, e questi qua si sentono, prende tutto. Io sì, ma io già lo so, anche io adesso sto parlando da lontano con questo, no? Ma io lo so che andavo alla grande, andavo, ce l'avevo sul contact, quindi 5 P ce l'avevo. E poi ci ho messo il baracchino, ha funzionato in lui più, ma in contact, in ricezione, mi sono messo, l'ho iniziato a farlo ricevere, quasi anche, sto pensando che ci siano tarate le bobine lì, bisogna ritararlo, perché hai capito, il freddo la sta lì, crea tante cose, hai capito, e niente, poi per le valvole già sono nelle 84, lì già si buscano a comprare per diffusarmi dove ci le ha, perché quello era un signor apparato, all'epoca era quello che era da lì, uno addirittura l'aveva modificato, io per lasciare originale, ci aveva messo il WFO e ci aveva canali sotto ed era una roba fenomenale, peccato che non c'era le bande laterali, perché era un signor apparato come questo durante adesso, se le metto il WFO, quindi gli Alfa, tutti quanti, solo che non c'ha le bande, però per le bande c'ho il Sommer KTS 340 che è nuovo di pacca, quello riceve e non trasmette, sempre da lasciarli firmi, e mai usato quello che fa, l'avevo comprato, ce l'ho messo in garage, ce l'ho messo e non mi trasmette più, ed è da vedere, capito, e lì posso fare quello che voglio. Capo, sono un peccato però, lasciare così ammalati, vedi poi cosa succede. Se è lasciato di fermo è probabile che siano i condensatori, io proverei a lasciarlo attaccato in corrente almeno 24 ore a vedere se si ricaricano i condensatori. Sono sicuro, guarda, io ho fatto ripartire un apparato vecchio, l'ho lasciato acceso una notte intera e l'indomani mattina funzionava. Ok, no, la ricezione si è ripresa, Pierpa, però sto pensando che le valvole si siano esaurite. Vabbè, ma sempre le valvole già si trovano, le valvole di quello. Perché i condensatori del contact sono condensatori carta sono condensatori carta vedo quelli picchi più quella roba lì ormai dietro il banco. Aspetta, sta parlando un po' di due forse, però non so se il gioco vale la candela, comunque se funziona in ricezione già riuscirò anche a metterlo a posto in trasmissione, non so problemi. Con questo che sto usando era fermo da qui ci ho messo le valvole per ritarare nelle bocche. Aspetta che ci capi due picco, 10 watt di picco non sovramodulare, c'è qualcuno che sta sovramodulando sopra capi due, caspittina. Scusate Lirino, Matanino, sì, dai, chi è? Adesso vuoi parlare? C'era qualcuno che stava chiamando a me, chi è avanti? Sono io, di una vesta. Ah, tu sì, Ari. Ehi, mi senti, sì. Già, ti sento. E io così sono contento. Sì, anch'io, d'accordo. Meglio sentirsi sempre comunque, di giorno anche di notte. Tu se fai la cacca di mattina a poco, non c'è problema, basta che sei vivo. Ascolta, lontanati quel microfono che sembra che ci hai impattato in bocca, non ti capisci un cavolo di quello che dici. Non ve lo avvicinate quel microfono che sennò fa una brutta modulazione. Prova col microfono più lontano dalla bocca. Questo è bello, va, 1, 2, 3. Almeno si capisce quello che dici. metti c'è scherzo, riprendi. Ma pensa c'è non bene, così. Anda per Mira, fai girare per via Paolo, dai. Senti qua, non sei che c'è un bacio bacio. Cosa ha detto, lo capite? Dove sei che ti sento basso? E via Milano. Via Milano? E via Milano solo. Adesso ti stai sollevando. Papà, stavo rubando un paio di bomboli, ma non è colpa mia. Inteso, no, non l'ho detto. Ti tira pure il paio di bomboli. Un paio di bomboli? Sì. E poi cosa vuol dire quei bomboli? Mi faccio lo di dietro, che a me mi ricappa la risa. Sì, io lo so. E a due, ma non è il tuo, no? Dalla villetta dove c'è un'ambulanza, ho visto due bombe di ossigeno e ho portato via. Sì, vabbè, ascolta, fai come vuoi, attenta a quel pitbull che c'è lì. Comunque fai come vuoi, adesso vado a mangiare, vuoi? D'accordo, vai a mangiare, c'è problema. Un paio di cose, il cavallo. Come sono deferito, l'altra lì, vado a mangiare qualcosa, va. Sì, fai così, dai. Ma sai cosa è nata lì? Che siccome mi è venuta la voglia, mi sono fatto friggere una saffatta di calamari. Carissimo, sto arrivando! Ho preso un gruppo, no, la gente chiamava Andrea Treccia, se ti dicono a lui! A voi ti lamenti! A voi mi lamento, mi ringrazio, Gio Marie! A voi ti lamenti! Non passa un bel rivale, buonasera a tutti. Ciao, io Marie, mi pare che sia come disgraziato qui su Pierpaolo, che... A me mi pare che deve essere peggio disgraziato. Che tutte le cose di buono si mangia tu, che sta trimendo. Ma la magna! Ah, va, fianco tu, non è da l'altra, ma è da graziamo pure. Ha elencato tutte le cose che si è cucinato, che... No, guarda io, ho so di cuffie miei, non si vede, ma ti sento un po' strana la radio tua, eh. E a chi ero lontano, mia, vai, te andava. Ma te la portate, c'era un zio però, eh. Un zio? E se non hanno alimentato una ventola, magari. Ho sento parlare, è qualche burro, Ti attacco. Ecco, ecco, sono via duro, cambio. Avanti, su, Venturo. Mi siete sopra la moto, avanti, in parecchi, pure. Avanti, tornato, con una buonasera. Buonasera, Falchetto, buonasera, tutto bene? Tutto bene, in compagnia di Gian Maria, Nattarino, Pier Paolo e poi non ricordo altri. Avanti per i saluti. Va, tornare con un riprese. Mi lascio la porta tenuta, Gio Mari, guarda un po'. No, Rondio adesso non ce n'è, eh. Adesso non ce n'è Rondio. Cosa vuoi che te dica? Ma non mi piace la sai, a me non mi piace. Oh, a me io parlo di lei, non mi piace. Vabbè, Pierpaolo non riprende perché se mangia la faccia di tutti, che è per tre mattinetti, e poi fritti buru, e non li può mangiare. E allora mia adesso lo cambio, mi questo è il tarnel P2, adesso metto le mie P4, dai. Ah, guarda, io. Bravo, non mi piace questo microfono. Dai, ciamba microfono. Aspettate, salutiamo a Falchetto, va. Ciao Falchetto, buonasera. Buonasera, Gio Marì, buonasera anche a te. E allora, tutto bene? Ah, se ne abbiamo già le mangiamo, se no mi fanno fare un giro di zappolo e mi manderò via. Ok. Vedi un po', tornato. Sì, buonasera, Gio Maria, e ben trovato in modulazione, cambio. ok, ma il DM sei torna. E dimmi Gianmaria, non ho copiato bene, scusami. È in macchina sei oppure a casa? No, sono in macchina, in questo momento mi trovo su Allone Sole, cambio. Ah, è per quello, è un po' strano, credevo. Ok, allora stai andando bene, tranquillo, pacifico. Muy bien, vediamo un po' se sta pappando Vera 1, Vera 1. La so qua già. Ma tieni conto che io però sono alle 6 di stamattina al lavoro e sono rientrato alle 3 e mezza, non ho neanche prendato, Cazzo, ti vorrei fare allora, l'ho visto come il cavello, va bene, arrata, arrata. E beh, a me da lì c'è la radio meglio, Hai una terribile. Ah, ma sei tu. Poi devo andare più due, gatta. E noi ci vengo. Lo so che io noi ci vengo. Cambia la capsula. Cambia la capsula, Tarì. Comunque, scusate, io vado a proseguire. Ti raccomando, metti al comietto di aria. Un po' magari esce meglio di questa qui. Forse una capsula che non serve qui. Vabbè, là. Traiamo le mebbi più 4, va. Va benissimo, Pierpa, bianco mie due da voi, non resto. Ah, se c'è la bocca mia non risponde. Riprendi, dimmi, fa che? Già da me. E infatti adesso già. Già l'hanno di Natalino quella, dai. Va bene, dai che rilanciamo a Giuseppe. Avanti Giuseppe. Sì, grazie per il Mike rilanciato Natalino. Va, Natalino, senti a me lì. Buonanotte, casa è passata una bella sberla in questo momento. Casa è guai. Ma quel microfono sta riuscendo male. Perché non è comprensibile la modulazione quando ce lo tieni vicino. Non c'è bisogno di tenerlo vicino al microfono. Lo prego un attimo. Sì, buonasera Roberto, da questa parte. Com'è questa radio? Ah, c'è confronto azzurro. Questo è un M600 Natalì, quel gruppetto di roba che avevo preso l'altro giorno. Com'è, brutta? Come, cosa mi dici? È come che abbia un microfono normale, capito là? Non amplifica, se non è che basso, che l'hai tenuto basso, la radio c'è in 5, capito? Guarda adesso. Vabbè, se no non vediamo se aumenta, dai. Natali, vai al 23, spostati al 23. E vabbè, dai, già stai uscendo bene, adesso già è più alta la radio. Non c'è problema, dai. Vabbè dai, non volevo rompere la scatola a nessuno. Stavo solo provando questo microfono, questa roba che ho preso. E ok, anda bene meta. Avanti, già ne do più room, buonasera. Buonasera a tutti. Ok. Distintamente, così non faccio sbagli, gappa, avanti Natalino. Gara. Beh, uscito sì, da. E subito sto uscendo, là. Prima oggi facciamo ce l'ho fatta. Vabbè. Andrà bene mena. Ciao a tutti. Ciao Antonio. E ciao Roberto Quadrato. Ciao Antonio. Ah. E che c'è anche Gianni, cioè, purtroppo io non lo sento finché non mi si avvicina un po', perché c'ho il QRM molto alto, Sì, vabbè, è ancora a Porto Torres e quindi sta per andare via, sta per rientrare. Lasciamolo avvicinare un po' così tu lo senti bene, gara. Avanti Gianni. Sì, io vi ascolto forte e chiaro a tutti, Frappito, avanti, vi ascolti? Positivo, vai. Buonasera, Doppio Ru. Forte e chiaro anche io ti sento bene, non so se tu punti a me, cambio. Perché se ti sento basso sento anche a te, dai. Chi c'è in ruota? Avanti il prossimo, non sembra che si tira Roberto Quadrato, avanti. Questo non c'è. Che c'era? Roberto grazie per i saluti a Gianni Doppio Ru. Se forse ho preso un grazie. State tutti calpestando. Lasciate un attimo di bianco prima di entrare. A modulare, che se no vi calpestate. Prendi, Roberto. Avanti, perché? Positiva. Hai ragione, bisogna lasciare un po' di bianco, se no è ormai c'era. Roberto c'era, ma forse ha fatto un po' di bianco, dai, non lo so. Avanti, prossimo, riprenda per i saluti, dai. Mario, però tu devi comprendere che se non l'intendimo non è la colpa, non è la nostra. Se non l'intendimo basta, no? Quando lo sentiamo è inutile dire la sovramodulate o sovramodulate. Se voi lo volete, se voi lo che lo sentite, volete modulare soltanto voi che siete i più potenti in antenna, allora facciamo così, guardami. I più piccoli che mi vogliono seguire, canale 1, frequenza numero 1. Io vado 1, mi sintonizzo, l'ascolto e basta, sul 21 non c'entro più. Ma perché devi parlare così? Non ho capito. Bisogna lasciare appena il bianco prima di entrare, così se uno entra lo sentiamo. Non lo sentiamo, se uno c'ha il dito veloce e allora si calpestano tutti uno con l'altro. Io non so potete niente, no? Stavo solo dicendo che vi stavate calpestando. Non stavo neanche modulando io, fatti il conto. Oh, riprendi Pierpa. Riprenda chi vuole riprendere, là. Riprende Tornado per il QRT e niente, lascia la barra mobile per postazione fissa e cambio e rilancio il mic a chi stava parlando, grazie. Quindi Panchetto è positivo, vai. Buono QRT, Giuseppe, e niente, rilancio il mic a Pierpaolo, avanti Pierpaolo, niente, riprendi Natalia. Gianni c'è, Gianni doppio blu. Qua sono, qua dai, sono arrivato quasi alla fiamma sarda. Va bene, va bene Meda. Ma papà, io avevo ragione, stavano tutti sovramodulando. Chiama gara. Andà bene, Pierpaolo, se vuoi riprendere, riprendi, dai, avanti. Non riprende, non sa che ti dica. Io l'ho lanciato due volte, non riprende. L'ha lanciato anche, come si chiama, Falchetto, non sa che ti dica. Mi sa, ma se c'è super maloce che andò a fare così, non lo so qui. Ah, bene, là, riprendete voi che io vado a fare quello che devo fare. Metto un attimo in QRX e ci sentiamo più tardi al limite, là. Ciao a tutti. No, ciao Natalia. No, adesso mi metto non la so, va, senza nessuno. Però che già c'è il Parchetto anche. C'era Capri 2, magari si è sentato un attimo. Capri 2, ci sei? Qualche riprendi. Positivo. Dove sei arrivato adesso? Adesso sono a Monterraso. Gamba. Già ti sento bene, dai. Tu non mi senti bene? Diciamo che c'è un po' di QRM, dai. Sotto, però già ti sento. È positivo, positivo. Allora, finito tra bancari oggi? Finito. Gamba oggi. Andava ben meno, dai. Andava bene. Guarda chi chiama. Buonasera a tutti, no, è un ascolto, sono la prima ottava, tu mi stai segnale, ho detto io se vuole se mi sente Gianni. Certo che ti sento, Ti sento forte e chiaro, Buonasera a tutti, ciao Falchetto. Ciao Sabato, buonasera anche a te. Sì, Sabato, e allora, cosa si prospetta per domani? Girate in barca? Non lo so, vediamo, domani mattina c'è un impegno, domani sera a colarsi, dopo pranzo se è bello un'uscita la facciamo, adesso vediamo, com'è al mare già, perché oggi non sono più andare a quelle parti, ero sui montagni, ero a Pimpio, quindi non ho visto male. E io lo stesso, io ho visto solo quello del porto e basta, non ti posso dire nulla, perché dalla città non mi sono allontanato oggi, e ho visto il mare nel porto e buco. ascolto il bollettino oppure. Cos'è? Molta gente oggi? Insomma, già c'era. Ok. Ma che non l'hai portato su a Sant'Agostino a tuo figlio? Sì, no, ha detto che era stanco e che non aveva voglia di andare. Si è addormentato, e la faccetta. No, siccome l'ho detto a Claudio, ho detto a mio figlio, e guarda che c'è il figlio di Coro. Sì, sì, c'è, già l'ho visto, c'hanno due insegnanti, c'ha due insegnanti. Sono donne, tanti e due, sì. Sì, si va volentieri, ma oggi era molto stanco, poverino, invece non se la sentiva, e a volte i bambini sono così, se si addormentano cosa fai, che non svegli. Anche se non do bene, ma una volta di tanto già si può fare. Caspettina, mica recca nel mondo, meglio se è addormentato, mica potevi svegliarlo. Hai fatto bene già. Ok, che c'è già qui? Mi sembra che ho sentito Natalino e mi sfuggita Roberto, non so. Lasciamo attivare il bianco, vediamo un po' se c'è qualcuno. Avanti sul 21. No, mi è sembrato che Roberto si è entrato, ha fatto capolino e poi pure ha chiuso. Mi è sembrato così, però almeno io la porto a torre se non lo sentivo bene. Io non mi sembra bene sentito anch'io, perché? Ma Roberto c'era anche. Sentivo, è entrato, stava provando un apparato e... sparito. Già rientra, magari già rientra, se no pulire un colpo di telefono lo facciamo entrare. E dove sei già adesso? Sono un po' di buchi, dai. Un po' il segnale mi è calato, tanto è vero. Poco fa ero più alto. Sì, e tu domani già cosa fai? Riposo? Domani pigro, un po' di letto in più, un po' di letto in più anche perché stanotte non so che la finiamo. Io a te non ti ho detto niente perché non ti ho sentito, comunque stanotte stiamo facendo una pizzata a buio, che se vuoi venire se la faccio non c'è problema. E sulle 21, grazie. C'è stato il break, se no già non ce la faccio stasera, mi ho detto tanto è vero, settimana prossima mi posso liberare, stasera non ce la faccio, se lo facciamo venerdì prossimo come abbiamo detto sono disponibile, perché settimana prossima sono libero completamente, avanti il break sul 21. Sì, grazie, tornavo di nuovo in postazione fissa. Ben sentito Gianni, non so chi ci sia altro, altri che stanno modulando. Avanti, chi stava parlando? Buonasera, tornato, ti ho fatto entrare Salvatore d'Ottava, e c'è anche oltre Gianni, c'è anche Falchetto. Qui non c'era Natalino, ma non so se abbia fatto il correttivo. Capito già, non ce la faccio stasera. Comunque ti stavo dicendo un'altra cosa, guarda che a Tempio si stanno già organizzando per il carnevale, cioè, ho visto che i preparativi sono ben avanti. Vabbè, io non è che vado tutti gli anni, ogni tanto ci vado. Prima ci andavo a lavorare da giorno, di notte, ci si divertiva, ma adesso c'è la più grande. Capo, va bene, almeno i ragazzi portano a farglielo vedere. Magari vai a quello che fanno la sera un po' presto, e poi se c'è freddo se non rientri. Almeno i ragazzi devi portarli, vai. E quello sì. Non ho visto che quello di Porto Torres, quello estivo che hanno fatto, era bellino, eh? Capo, registrato? Sì, no, portali che quest'anno è bellino, quello di tempo. Ho visto i preparativi e c'è una bella sfilata. Ok, facciamo entrare il break e con la buonasera. Un controllo qua, Sandro, è in camion bella pesante. Sandro, buonasera, qua è Salvatore d'Ottava, Sant'Evo 9, Radio Quasi 5, là. Dovete alzarti un po' di radio. Ok, ti mando avanti a Gianni, che lui anche lui invece è Marramobile, presso la Budibudi, e poi farà già i pediatri. Vai Gianni. Ciao Sandro, buonasera, dai. Vediamo un po' come va. Prima di nuovo avanti, dai. Buonasera a tutti, mi ascoltate? Capa? Ciao Luca. Gianni, ciao a tutti. Ciao Luca, buonasera. Sandro, ci sei? Ho fatto, ciao. Mi ricordo il nome. lì, vabbè, coordinate Sacro Cuore, non so chi ci sia, avanti. Papa, ben trovato Luca, buonasera, buonasera. E che mi dimentico il nome attivo, Giuseppe, vabbè, il nome, ma il nome attivo. Tornato, tornato. Andava bene, dai, andava bene. Trovato. Papa, e cosa stai facendo Luca, eh? A casa? Cosa vuoi fare? A casa. Troppo mangio. Ah, computer, Trovato. Sto sempre giocando un po' sul computer per vedere un po' la... come va, dai. E cappa, fai bene, già io mi perdo anche quello. Ma su Facebook ci sei? Certo ci sono, no, non mi piace, boh, non c'è privacy in quel cacchio di programma. No, non mattina, la verità. E sai cos'è? È comodo perché si può organizzare qualche gruppo, tipo gruppo CB Sassari, in maniera da avere la possibilità di lasciare dei messaggi e avere un punto di recapito lì. Su quello sì, certo, vero, vero. Sì, sì. Ci sono comunque. Ci sono, ci sono. Tu cerca, come sono, Fortiche, Luca, Fortiche, Luca Fortiche, non mi ricordo. Qua su Capotiche, guarda che c'ho la foto di, non c'è da sbagliare, di come fa lo spettacoli a Italia 1, Max. Salvatore. Sì, buonasera. Sì, ho capito, avanti che mi sta chiamando. Capri 2 solo, Salvatore, buonasera, ben sentito. Sono entrato, ero in ruota, poi sono andato con Roberto che stava provando un microfono. Ti ascolto abbastanza bene, ti rimetto il cambio, come mi ascolti Salvatore, sia di radio e sia di Santiago, cambio. Buonasera Capri 2, sì no, guarda, Santiago, se Santiago 6 di radio è perfetta, va bene, stasera anche perché non c'è QRM, quindi ascolto molto bene, ti ascolto, dai, sto facendo bene, quindi sei con Roberto sei, insieme a lui. No, sono passato su 23, sono passato, perché Roberto stava provando un microfono, ero qui, c'era Natalino, che, siccome sto aspettando gente in casa da un momento all'altro, e quindi sono saliti e scesi dalla stazione, poi non so chi sia entrato e chi c'è. Ho sentito a Luca di nuovo, buonasera Luca, e rimetto il cambio a lui, e sono in quei veicoli che sto aspettando gente in casa, lo parecchio comunque rimane sempre acceso, riprendi Luca. Capo, ciao Gianni Capri 2, buonasera, comunque di qui fortissimo qua, segnale 7, radio bomba come sempre, a te il mic Gianni. Ok, perfetto, io ho sentito anche a Gianni Doppio Lui che suona butti, provo a rimettere il cambio, Gianni mi ascolti quei pezzi? Io ti ascolto sempre Capri 2, tu mi ascolti? Il problema è se tu ascolti me il K. Già ti ascolto, già ti ascolto, anche bene, oscillante, la lancetta, il movimento. E niente, io sono, diciamo, tutta la sera all'apparecchio, però adesso devo scendere che devi arrivare quelle persone a quanto sono, perché mi stavano a chiamare la 50 poco fa. Adesso scendo, poi riprendo. Non so a chi rilanciare perché mi ero sentato. Mi metto il tutto adesso a Salvatore e farà girare perché io poi mi sono assentato, non so chi è rimasto, riprendi Salvatore. Ciao Salvatore, dimmi. Guarda che ci sono anch'io su Facebook, così ti metti a ridere quando vedi qualcosa. Allora, poi facciamo, poi chiedo amicizia sia a te, a Luca, e poi facciamo un gruppo, avanti lì, dai, ci stai, così almeno facciamo, mettiamo le notizie nostre. Il gruppo CB Sassari, in trovano Salvato. Sì, e poi l'ho fatto anche, chiedo l'iscrizione, invece di accettare appartenere al gruppo. Così vediamo un po' di avere un punto di riferimento da Natali. Ma Natali, venerdì prossimo quella roba si fa? Mettetevi d'accordo, ho detto, mettetevi d'accordo. Quando voi mi dite se si fa, io vengo. Se voi mi dite che per venerdì io mi rivolgo da adesso, se c'è un accordo venerdì, guarda, poi il posto lo scegliamo anche all'ultimo momento, mi dà lì. Non c'è problema, tu chiama Roberto, ti degli impegni e a Gianni. E si fa. Iacca, aspetta, vediamo un po', tappe 2, ci sei ancora? Il sabato sono qui, io appunto stasera a cena, diciamola, sto tornando l'opera, io sto aspettando, e devo parlare di mia suocera che proprio oggi con i miei cognati, no, sono in Bolotta, diciamo, di parenti a Soso, e ha detto che faceva una tappa qui, quindi mia moglie mi sta aspettando per fare qualcosa per cena, infatti sono sempre salendo e scendendo, sono sempre sulla porta, capite, ma se è andata, però c'è anche l'altro venerdì, non c'è problema per me sabato. Ok, perfetto, poi io mi metto in contatto con Roberto e lo facciamo, già non c'è bisogno di dire, intanto penso che sia d'accordo. Va bene, che c'è? Allora, Franca, riprendi tu che sei in posteggio. Siamo il campo, non c'è problema. Non c'è problema, riprendete, sono discorsi sì di vostri. Già sono qua in ascolto, non c'è problema sabato. Vabbè, ma non puoi rimanere sempre ad ascoltare il suo discorso, ogni tanto ne vedi anche la tua. Lo so, vabbè, ma ci sei? Roberto ha chiuso, l'ha passato sul 23 con me, per provare il microfono, anche lui che gli è arrivata, non so, anche a lui gente in casa, non so cosa stava facendo, e così. Comunque attenzione che poi paghi troppo nel parcheggio, qualche. Ecco. Sì, grazie, giusto per venire fuori dal parcheggio e salutare Capri2 da Giuseppe Tornado in questo momento in postazione fissa, con la speranza che mi copri bene. Avanti Capri2. R, che ti ascolto, Roger, Giuseppe, ti ascolto fortissimo, ti ascolto. No, io, diciamo, non vi ho rilanciato perché sono mancato. Il microfono è già al piano di sotto, questo aspettando gente da un momento all'altro, e quindi rifierrato, ho detto poi qualche loro che ha fatto quel retti, perché ero risalito, c'era Roberto, siamo passati su 23 a fare una prova, poi ha chiuso e sono passato di nuovo su questo canale. Ok, comunque mi arrivi bene Giuseppe, rilascio Natalino, quindi avanti Natalino. Dai, io sto facendo una cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, faccio un po' di quei X, dai, già rimando in ascolto. Sì, anche io farei quei reiki, però la parecchio è acceso, rimetto il tutto a Luca e poi riprenderò quando sarà possibile. Avanti Luca. E anche io so quale ha fatto, con un paio di cubi del computer non mi funzionano più, dai. Ma lo ascolto e passo il mic a... a parchetto se c'è, vai a parchetto. Cappa di Roggio, vai. Cappa Roggio, mi sa che anch'io rimango un po' in ascolto, perché è preparativo, dai. Rilancio il mic a Giuseppe, dai, avanti Giuseppe. Sì, grazie l'amico Falfeghetto per il rilancio del mic. Poco fa in sottofondo ho sentito qualcuno che mi ha chiesto se ho cambiato microfono. Avanti per la domanda. Io, ciao Giuseppe, ho detto microfono è cambiato. Negativo Gianni, negativo. Ho staccato l'apparecchio che mi era stato prestato dall'amico mio, adesso sto uscendo con il mio 48. Vabbè, comunque secondo me ti ho aumentato la LC perché è bello forte il microfono. Sì, ma a parte quello è stata cambiata anche la capsula, Gianni, cambio. Dimmi un po', giusto per una prova, vedi un pochino come ti sembro sia di Santiago che di radio, Gianni, fai la cortesia. E quasi 9:10 di Santiago, la radio 5 a bomba. Grazie Gianni, grazie, cambio. Toc. Fammi un passaggio tu Gianni, sei sempre in barra leggera. C'è del sovrappolurato. Vado. Avanti. Guarda su Facebook col mio nome a vedere e trovi a me su Facebook, così ti metti a ridere. K2 di Roger. Quindi adesso sei a posto, anche un rappresentante. K, Gianni, K, abbiamo provato alcune prove stamattina, c'era anche il buon Natalino con noi e niente, stavamo uscendo a bomba. Così. A proposito di qualcuno, vediamo un pochino se c'è ancora il nostro amico Falchetto. Falchetto, ormai che è tutto per te, vai. Positivo, vai. Siamo qua adesso, mi sto quasi per tra poco mi preparo. E niente, così ci vediamo a quell'appuntamento. E niente, dai, rilancio il mic a Natalino. Avanti, Natalino. Vieni andare 9:30. Va bene, ma io mi devo fare, devo preparare, capito? Lo so che alle 9:30 già lo so, ma devo prepararmi, fare qualcosa, capito? Attenzione, attenzione sul 21. Ti voglio un rossetto, sei di buoni. Devo mettere il piede di donna, se no come facciamo? Ti compreso, dai. Devo mettere i femmini, bubu. Attenzione sul 21, cambio. Sul 21. Sì, grazie, grazie, ma 21:30 o 22:30, cambio? 22:30. K, allora avevo capito bene io, dai. Ma se vuoi possiamo uscire anche prima, mi non ha detto che dobbiamo andare per forza a quell'ora. K, Gianni, niente, visto che siamo in quattro, mettiamoci d'accordo, anche se ci troviamo magari un'oretta prima, a me va bene, non c'è nessun problema. Ragazzi, per me adesso mi faccio il bagno, vado a casa e mi faccio il bagno e poi mi preparo. Cappa Gianni, vai tranquillo, dai, nessun problema. E avanti il pacchetto per la conferma e poi a girare per Natalino, cambio. È positivo, io sono rimasto d'accordo che Natalino scende verso le 9:30 al mio QTH a prenderti, capito, vai Giuseppe. Kappa, perché va benissimo, e quindi se ci organizziamo magari ci possiamo trovare lì su, che ne so io, anche, che ne so, anche un'oretta prima, mezz'ora prima, come volete voi, basta che io lo sappia. Sì, adesso rilancio il mic a Natalino, avanti Natalino. Per me non c'è problema, vado, mi lavo e posso uscire anche subito, e al limite ci troviamo al quadrato. Capito, non c'è problema. Ci troviamo lì e poi andiamo dove dobbiamo andare. Kappa, al quadrato a che ora? Alle 8:30 anche, così ci facciamo una chiacchierata e poi a quell'ora che dobbiamo andare andiamo a quel posto lì dove dobbiamo andare, capito? Kappa, mi puoi confermare di nuovo l'ora? La bambina qui ha fischiato e ho solo ho un orecchio, Natali, scusami. Sì, io alle 8:30 vado a prendere a coso a Falchetto e poi ci troviamo al quadrato dopo le 8:30, dai. Io mi devo preparare e vado a prendere a Falchetto, anche il Falchetto si deve preparare, capito? Kappa, Natalino, avanti Gianni per la conferma, vai. Io alle 8:30 non penso di farcela perché mi devo lavare, però facciamo verso le 9:15 a casa tua, posso abbigliarti io, vai. Diciamo Gianni? Gianni, mi senti? Copiato. Gianni, stavi parlando con me? Yeah. Ok, allora intorno a un'ora mi faccio trovare giù, Gianni. Per 9, ok. Sì, Gianni, buon proseguimento, dai, vai tranquillo. Niente, se devi chiudere, chiudi tranquillamente, anche perché tu sei su barra leggera e noi siamo su portazione pista. Fai tutto con tranquillità e ci sentiamo più tardi, Gianni, dai. Ok, va bene, io vado a prepararmi allora, dai. Ok, allora QRT per tutti. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Positivo, QRT anche da parte mia mi preparo. Ciao, ciao. Ciao, perché? Ciao ragazzi. Io faccio un po' casa tua, ok? Perfetto Gianni, ci sono.